Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. A Milano, il mondo che abiteremo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali con il claim dell'edizione numero 52 del Salone Internazionale del Mobile e del Design. Apriamo questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Puntata interamente dedicata all'appuntamento che ogni anno detta le tendenze dell'abitare. Scopriremo allora quali sono queste nuove tendenze, i nomi delle aziende, dei designer protagonisti del mercato e le nuove promesse in vetrina al Salone Satellite. E poi racconteremo le iniziative più all'avanguardia del cosiddetto fuorisalone. Quello che mi preoccupa più di tutto è che l'oggetto risponda realmente a una funzione, che questa funzione venga svolta nel modo più semplice e più facile possibile, che l'oggetto non sia legato a nessun stile, a nessuna moda, per cui lo si possa vendere anche fra 20 anni. Infatti io ho degli oggetti che si vendono da 40 anni, per esempio, perché non sono legati a nessuna moda. E soprattutto quello che mi piace di più, che proprio mi dà un grande piacere, è fare un oggetto che più semplice di così non si possa fare. Così Bruno Munari, il grande artista e designer, parole più che mai attuali per parlare di design anche in questo particolare momento storico, occasione il tradizionale Salone del Mobile che si chiude oggi a Milano. 300.000 visitatori da 160 paesi, oltre 2.500 gli espositori, anche quest'anno i saloni, 4 esposizioni principali cui si aggiungono gli eventi del fuorisalone, hanno trasformato Milano nella capitale internazionale del design. Un'edizione all'insegna del design responsabile, niente azzardi, sì alle riedizioni, all'innovazione nei colori e nei materiali e ai pezzi multifunzionali, attenti agli spazi, ai costi e agli usi. Ci riassume le tendenze di quest'anno il critico e designer Marco Romanelli al microfono di Irene Privitera. La tendenza principale, devo dire, che è una fortissima reazione al tema della crisi economica. Le aziende hanno lavorato in modo estremamente corretto, estremamente potente, e quindi vorrei dire che è un salone più propositivo di quello dell'anno scorso. I prodotti. Sicuramente c'è una grossa tendenza al comfort. Le cose devono funzionare molto bene a livello, diciamo, sia pratico che psicologico. Per cui c'è grandissima attenzione a questi valori del nido, della casa, del comfort. È molto interessante anche vedere come una delle caratteristiche, una delle tendenze del salone, diciamo, alto della produzione, è quella di mischiare le tecnologie più futuristiche con le tecniche artigianali più antiche, molto spesso nello stesso prodotto. Cioè noi possiamo trovare scocche stampate che poi vengono invece finite, bordate, piuttosto che accessoriate con ricami, lavorazioni a maglia, piccolo punto, midollino, cioè tecniche veramente artigianali. Questo mi sembra molto interessante, perché in realtà un rilancio vero dell'artigianato può avvenire soltanto nel momento in cui si inserisce in un modo di produzione industriale. Si ritorna tanto al passato. Assolutamente, e nostalgia è un'altra delle parole che caratterizza questo salone. Ad esempio, da Floss è rinato Gino Sarfatti, uno dei più grandi designer della luce che siano mai esistiti, molto dimenticato, con 5 pezzi. Da Oluce troviamo una lampada del 63 di Marco Zanuso, l'unico pezzo che ha disegnato, con una particolare rotazione. Qui nel mobile abbiamo visto Ponti da Molteni, Gastone Rinaldi da Poltrona Frau, Lina Bobardi da Harper, Achille Piergiacomo Castiglioni da Meritalia. Quindi diciamo che la riedizione è sicuramente un fenomeno molto presente. Io credo che sia anche un modo per garantire, diciamo, il compratore, nel senso che una parte del nostro pubblico continua a leggere design come tendenza e quindi come moda, e questo per me è sbagliato. Che cosa fanno le aziende per, diciamo, rispondere a questa negatività? Moda, quindi sostituzione frequente. Si agganciano al passato e propongono degli oggetti che, essendo già stati disegnati molti anni fa, non rischiano più di invecchiare. Quali sono i colori che andranno, quindi, per quanto riguarda l'arredamento? Ma senz'altro, io dovessi dire una tinta, direi il grigio. In particolare un grigio molto caldo, un grigio sporcato col marrone e che poi si declina in tutte le sue nuance dal fango fino al grigio ardesia. Ovviamente poi viene, diciamo, acceso con delle punte di colori che però sono dei colori molto particolari. C'è il senape, c'è il rosso brunito, ci sono moltissime sfumature di verde, che è un colore che nell'arredamento è difficilmente usato perché non è un colore facilissimo. Quindi diciamo che è un mondo che in questo momento rifiuta il bianco e nero, che è una delle caratteristiche invece del design, no? Bianco, nero, acciaio. No, sono colori molto più morbidi, molto più ospitali, molto più caldi, quindi io credo che avremo questo senso della scatola monocroma con questi grigi e poi delle punte di colore. Come si confronta il settore con la frenata dei consumi 2013? Fabio Pisano ha intervistato per noi Claudio Luti, presidente di Cosmit, l'ente organizzatore dei saloni. Mi aspetto che il salone possa aiutare tutte le aziende italiane per guardare all'estero. Chiaramente con la recessione nel sud Europa le aziende che hanno soltanto un mercato italiano sono in problemi in questo momento, dobbiamo aiutarle a guardare fuori, a iniziare a progettare come arrivare dai delle nazioni che possono essere i nostri nuovi clienti. E per il mercato interno cosa si può fare invece? Perché sull'export si spinge tanto, ma è necessario rilanciare anche... Al mercato interno oggi la recessione è data da varie situazioni che conosciamo, possiamo cercare di aiutare con la proposta che abbiamo fatto di detassare il 50% anche gli arredi oltre che le ristrutturazioni, e questa potrebbe dare una boccata d'ossigeno un po' al settore, però strutturalmente dobbiamo rivedere un po' tutta la situazione di distribuzione e di produzione. Guardando troppo all'estero non si corre il rischio di studiare dei prodotti, diciamo, adatti a mercati emergenti e che poi per un po' snaturano? No, assolutamente, ogni azienda non deve assolutamente snaturare niente, mantenere il suo DNA e continuare col proprio DNA a cercare di portarlo in tutto il mondo. Non dobbiamo noi cambiare, dobbiamo mantenere la nostra originalità, usare la nostra creatività come abbiamo sempre fatto, guai a fare il contrario. Talent Scout della manifestazione come ogni anno il Salone Satellite, l'area dedicata ai designer emergenti che arrivano qui da tutto il mondo. Al Satellite, dedicato in questa sua 16ª edizione al connubio tra design e artigianato, sono in mostra gli oggetti e i designer del domani. Li abbiamo incontrati e ci siamo fatti raccontare le loro creazioni. Diventiamo per una settimana il centro del mondo, l'ombelico del mondo, ed è bello perché si vede la creatività e l'artigianalità, perché poi qui vedi il design invece interpretato molto come artigianalità dalla Cina, dal Brasile, vedi com'è una concezione molto diversa da quella magari minimale milanese. Siamo con Alessandra Miacci, architetto. Ho portato degli elementi decorativi per le pareti e una lampada, e il concetto sia degli elementi decorativi che della lampada è quella di giocare con la trama delle ombre, della luce, di creare un elemento molto leggero di arredo per le pareti e che ognuno può disporre per creare il disegno che vuole. Sono in plexiglass, trasparente, dorato, ottone, alluminio, possono essere personalizzati perché è un foglio che viene tagliato al laser, si può piegare creando il volume che si vuole. Ademario Santos dal Brasile. Io ho utilizzato la cultura brasiliana, il artigianato, ho portato qui quattro prodotti. Uno è un tipo di imbarcazione chiamata jangada in Brasile, l'oggetto si chiama janga, è fatto con legno, con marù e anche con vitro. Un altro oggetto è un sgabelo che si chiama Zé e fa riferenza all'uomo che vive il campo del Brasile, e l'altro due fa riferenza alla leggenda del folklore brasiliano. E anche utilizza legno e artigianato di comunità del Brasile. Questa pezza di artigianato è fatta con e rifiuti di industrie di tessuto del Brasile. Tania De Cruz, cosa ha portato al Salone Satellite del 2013? È una piastrella modulare fonoassorbente realizzata in sughero espanso, materiale che ho usato nell'edilizia in fase di costruzione, che però viene solitamente nascosto. È sempre una gioia di venire a Milano, no? Perché la città cambia molto durante il salone e questo mi piace. Allora, si incontra molto amici internazionali, è bello, no? È veramente una grande soddisfazione. Di nuovo in studio con essere avere così a Pan Bianco TV il grande designer tedesco Ingo Maurer. Durante il salone la città si trasforma, dice. Sono centinaia gli eventi del cosiddetto fuori salone, tra mostre, presentazioni e installazioni, che durante la Design Week milanese trasformano la città in un contenitore trasversale di creatività. Arrivano da qui gli spunti per il focus sui trend di questa puntata speciale, tutta dedicata al design in occasione del Salone 2013. A guidarci nell'analisi, come sempre, c'è la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Terreno fertile per i cosiddetti cool hunter, per chi è a caccia di nuove tendenze. Il fuorisalone racconta tutte le novità in tema di design, comunicazione, prodotti e istanze di consumo. È la vetrina d'avanguardia. Patrizia, che cosa si è visto quest'anno? I makers, grandi protagonisti anche quest'anno del salone e del fuorisalone, che più massicciamente dell'anno scorso hanno esplorato il rapporto tra design e lavoro artigiano. L'inizio della cosiddetta terza rivoluzione industriale, con il suo immenso portato innovativo sull'occupazione, sull'economia manifatturiera futura, dunque si può chiaramente vedere e toccare con mano anche e proprio qui, guardando il nuovo fare a mano artigiano potenziato dalle tecnologie produttive e da quelle economiche. Un interessante laboratorio open sul tema è stato quello sulle stampanti 3D e design organizzato a Roda Ex Novo e il Brera Design District, con gli spazi Valcucine, Appartamento Lago e Segno Italiano tra gli altri, è stato interamente dedicato quest'anno all'integrazione tra saper fare artigianale e design industriale. Sull'autoproduzione, tema affine, anche quest'anno una mostra intitolata Bla Bla, curata da Alessandro Mendini, promossa dall'associazione Milano Makers alla Fabbrica del Vapore, per valorizzare e promuovere le produzioni indipendenti e non seriali nazionali e internazionali. E ancora la nuova mostra di Subalterno 1, Here We Go Again, curata da Stefano Maffei in zona Lambrate. Primo caso di crowd crafting, la co-creazione artigiana presso gli spazi di co-working Cowo Milano, nel distretto Ventura Lambrate, si è potuto assistere all'ultima sessione di lavoro per la produzione artigianale collettiva e partecipata del Divano per Managua, un progetto di Berto Salotti, l'iniziativa aperta che finanzierà la scuola per falegnami di Managua in Nicaragua tramite Terre des Hommes Italia. Altra grande stella dell'edizione 2013 del Salone del Fuorisalone, il cibo e gli chef. Non poteva che andare così, gli chef hanno colonizzato molti degli eventi del design. Mondo immaginario, settore merceologico, sappiamo ad altissimo tasso di innovazione. Il food che si ibrida con il design non sorprende, ma sorprendenti sono stati alcuni progetti speciali come il cocktail bar segreto in stile locali clandestini durante il proibizionismo Dry by Pisacco dell'omonimo ristorante milanese, aperto tutte le notti in location segrete comunicate all'ultimo via mail, o ancora le sperimentazioni come i drink miscelati e serviti da bracci robotici di Carlo Ratti. Insomma, una pletora di eventi che hanno messo al centro l'esperienza alimentare o icone e personaggi come sono oggi gli chef. Quest'anno la cucina si è associata ufficialmente all'universo design con Food and Design, la rassegna che ha animato il fuorisalone con un itinerario gastronomico che ha coinvolto ben 13 chef in 10 showroom cucine. Un modo per cominciare a parlare di temi importanti, rilevanti, che ritroveremo anche in occasione di Expo 2015 che è alle porte, quali il rispetto, la sostenibilità e la conservazione del cibo. E ancora presso Spazio Lavazza Experience, Oldani, Bottura e Cannavacciuolo, tre grandi maestri dell'alta gastronomia, hanno interpretato creativamente le 10 miscele Lavazza a modo mio. Dunque un modo per degustare intorno al caffè, allargare le prospettive del gusto e del design in occasione del lancio della nuova macchina Favola Cappuccino di Lavazza. Tra le novità non di prodotto ma più del contenitore salone, quindi un po' di secondo livello, una contaminazione sempre più spinta tra design e arte che è partita già prima del salone. Mi Art, kermesse di arte moderna e contemporanea che precede appunto il Salone del Mobile e il Fuorisalone, per la prima volta ha dedicato quest'anno una sezione al design, secondo un principio dichiarato di attraversamento di discipline. È una grande novità che il design contemporaneo entri in una fiera dell'arte, a conferma anche istituzionalmente di ciò che era già nelle cose, cioè che le due discipline non sono più separabili.